io mi proclamo capo dei Mamma Mia. Da adesso in poi. Dico da adesso in poi. Il capo dei Mamma Mia non è nessun altro che non sia me. Il capo dei Mamma Mia. Il capo dei Mamma Mia. È lui l'eroe di giorno. È lui l'amico dei bimbi. Il capo dei Mamma Mia. Lui è l'eroe del giorno. Il capo lui salverà la terra. Il capo de mamma mia. Il capo de mamma mia. Capo dei mamma. Capo de mamma mia. Capo dei mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mamma mia. Solo nella notte puoi chiamarmi.